Garibaldi fu ferito ad una gamba. Gazzettino del Risorgimento, la storia d'Italia, in 24 minuti. Per Garibaldi, viva! Da gennaio a luglio del 1830. La Francia mostra i muscoli, scatta l'occupazione dell'Algeria, l'analisi, Carlo X in cerca di consensi. Il diluvio universale non c'è mai stato, lo studio di un geologo scuote gli ambienti cattolici. Diventano un'attrazione da circo i gemelli uniti che vengono dal Siam. Una buona giornata da Simone Spezia e dalla redazione del Gazzettino del Risorgimento. In apertura di questa edizione parliamo dunque delle operazioni francesi in Nord Africa. La campagna algerina, scaturita da una banale questione commerciale che i più ritengono un pretesto, è durata appena 3 settimane. Le forze francesi, meglio armate e meglio organizzate, e che hanno sfruttato un piano di invasione che fu elaborato 20 anni fa da Napoleone Bonaparte, hanno avuto facilmente la meglio su quelle del Dey, il reggente che dominava su Algeri per nome e conto dell'impero ottomano. Un'operazione decisa in fretta e furia, con motivazioni, a quanto sembra, prettamente interne. L'analisi di Paolo Piacenza. Che guerra d'Algeria e crisi politica francese siano una cosa sola è chiaro fin da marzo. Il giorno 2, nell'inaugurare la sessione parlamentare del 1830, il re Carlo X ha pronunciato un discorso segnato da 2 passaggi. L'annuncio della spedizione d'Algeria è una velata minaccia alla maggioranza liberale della Camera che l'opposizione al governo ultraconservatore guidato dal principe Polignac non sarebbe stata tollerata. Ma l'assemblea non si è sottomessa e con un indirizzo votato da 221 deputati su 402 ha chiesto al re di accettare il ruolo forte del Parlamento. Carlo X ha dato corso alla sua minaccia. La Camera è stata aggiornata al 1 settembre. Sono circolate voci su un colpo di Stato da parte del re per abolire la carta. Il 16 maggio Carlo X ha sciolto la Camera e ha indetto nuove elezioni. 2 giorni dopo, il 18, è partita l'impresa algerina con l'evidente intento di dar lustro alla monarchia. Ma alla festa del Duca d'Orléans del 31 maggio, nei giardini aperti alla popolazione, si sono sentite grida a favore del padrone di casa, erede al trono e vicino ai liberali e contro il Polignac. Nonostante le vittorie algerine e un appello dello stesso re, il voto ha visto trionfare i liberali e la presa di Algeri non sembra in grado di frenare la crisi. Paolo Piacenza, il Gazzettino del Risorgimento, Radio 24. Sta suscitando ampio dibattito il libro Principi di Geologia, pubblicato dallo studioso britannico Charles Lyell. Secondo Lyell, l'attuale conformazione della Terra è dovuta a lenti e lunghi cambiamenti avvenuti nel corso dei millenni e non ad eventi catastrofici, né tantomeno ad un diluvio, come ritengono alcuni. Le tesi di Lyell, che quindi mette in dubbio anche la datazione fin qui immaginata da chi interpreta letteralmente la Bibbia, stanno naturalmente facendo discutere molto il mondo cattolico. Li chiamano gemelli siamesi proprio perché vengono dal Siam. I loro nomi sono Chang e Deng e sono nati uniti all'altezza dello sterno. Li ha scoperti l'anno scorso il mercante britannico Robert Hunter, che sta facendo far loro molti soldi guadagnandoci parecchio, anche lui portandoli in tour negli Stati Uniti. Li stiamo, tra l'altro, attendendo in Europa. È tutto. Sul nostro sito potete anche scaricare il nostro foglio quotidiano con immagini e notizie. Visitate il nostro blog, la nostra pagina Facebook, lasciateci un commento o fatelo prendendo penne e calamaio elettronici. L'indirizzo è gazzettino@radio24.it. Da Simone Spezia, che ha condotto questa edizione, l'ha curata insieme a Paolo Piacenza. Una buona giornata.